for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Eccoci qua, dunque Disorder anche per oggi, lunedì 5 luglio del 2021, spazio ormai consolidato del lunedì sera che andrà avanti da adesso sino alle 23 circa. Il tutto su www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità di ascoltarci con un computer. La frequenza per chi sta a Roma e dintorni è 87.9. On the 10th floor down the back stairs into no man's land. Ricordiamo naturalmente la campagna di crowdfunding che andrà avanti fino a settembre, una campagna che si può trovare con l'apposito banner sul sito della radio stessa e lì si può anche scegliere la modalità più favorita. Per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info, una serie di saluti, Maya in Sardegna. Deste Carlo from Boston di Violent Knox, Nadir Persegona, Cecilia Miraduli di Pindar, progetto Trip Hop di Milano, Alberto Clipper di MDMA e collaborazioni con Petrolio, materiale che ascolteremo presto in sede di prove tecniche di trasmissione. Doriana a Taranto, Tabu Arasi invece a Cortina d'Ampezzo, Laura Spirit Crusher, Antichrist di Omicidio a Firenze. Il medico della peste, Francesco Cornello a Bergamo, Marco qui a Roma, Giovanni Lisi di Corzi Cinti Serpente, Mariano Virdia in quel di Berlino. Salutiamo anche Simona che ci sta ascoltando a Pistoia, mentre noi proprio dall'Italia iniziamo con chiamiamola una new entry nelle track list del sottoscritto per questo progetto di origine neoclassica Martial che in parte mi ha ricordato i carissimi In The Nursery. Sto parlando dei milanesi, anzi è un progetto one man band come si suol dire, June 1974. Progetto che mi ha sorpreso alquanto, giacché non è facile ricreare quelle atmosfere appunto che ci ha riportato a In The Nursery. Non sono molti da queste parti a tentare di intraprendere quel tipo di strada. Questo album è di quest'anno, si chiama Avventura. E dietro June 1974 c'è Federico Romano, che salutiamo. Ci ascoltiamo Avventura e Tormentata Quiete. Abbiamo fatto la conoscenza con questo June 1974 di Federico Romano, progetto proveniente da Milano, se non erro. Dall'alto contenuto epico con queste partiture neoclassiche e questi lunghi excursus pianistici che ne fanno un disco che mi ha riportato, come ho già detto, agli albori e agli splendori di In the Nursery. Saluto su queste note Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta, Nicola Locci di Stigmate ed Hexagonal, anche lui ci sta ascoltando dalla Sardegna, e Wurnus Alien invece, progetto importante della scena industrial noise, dal quale è uscito un nuovo lavoro che ci ascolteremo anche mercoledì prossimo. Ai saluti aggiungo anche Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster. Andiamo in Germania e questa sera finiamo di goderci questo Twilight Garden, ultimo lavoro di Darkwood. Ci inoltriamo dunque nel neofolk teutonico. Tanti album al suo attivo, l'etichetta Leiden Folk, e lui si chiama Henrik Vogel alla chitarra, alla voce, e si circonda anche di partecipazioni molto interessanti in questo Twilight Garden. Comunque, sta per partire Night Was Golden e la splendida traccia di chiusura dal nome Emma in Winter. The king was looking at his crown, and his fame was long since gone, and the battle noises are drawing near. The king, he stumbled from his throne, and grief cuts him to the bone, and the moon would light the valley. Night was golden, night was golden. All his subjects were asleep, to the stable he would creep, and he mounted his black horse. He put spurs to its side until he reached a wooden hall in the heart of the mountain wasteland. Night was golden, night was golden. The lurkers were green, and the homes were filled with meat, women dancing around the fire. A grayish man with just one eye told him he had soon to die, but in this place he would be waiting. Night was golden, night was golden. Filled with strength and confidence, he rode back to his elder son. My true heir, your time has come. You will be the new king to rise, to the battle I must leave, with shield and sword to seal with blood. Golden. pleasant secret nobody knows about their real. And the Payson will light their way as they both traveling in time. And the bright moon is guiding them upon their way to silver line. Through foreign lands, through distant lives, throughout the time on silver wings, it goes round and round in circles, circles coiling to a spring. And the Payson will light their way as they're both traveling in time. The bright moon is guiding them upon their way to silver light. Upon a rock facing the deep blue sea, to themselves, but they focus on reality and rely on their insights. On a shore in a velvet night, they're both kissing in their dream. And in the lakes of emerald moss, they stand with eyes of silver sheen. And the Payson will light their way when they both traveling in time. And the bright moon is guiding them upon their way to silver line. And the Payson will light their way when they're both traveling in time. And the bright moon is guiding them upon their way to silver light. La marmorea bellezza di Emmanuel Winter, veramente un gioiello splendido, che andava a chiudere Twilight Garden, ultimo lavoro per Darkwood. Attualmente una delle migliori situazioni di area neofolk, progetto tedesco. I ask the raven in the field. E buon Giovanni Lisi, tornando indietro a June 1974, ci ricorda anche di nuovo e giustamente Coda, bell'album di In The Nursery, anche quello sulle coordinate del Martial. Eh sì, molto bello dunque Twilight Garden, Darkwood. Mi riprometto di andare un po' a scartabellare gli esordi di questo artista, che ormai suona da circa 20 anni nell'ombra, con queste ballate acustiche maledette in classico clima neofolk. With a shriek and cry he said to struggle and to strive. E torniamo in Italia, si cambia radicalmente ritmo e ci andiamo anche per questa sera a sentire un passaggio live riguardante i vecchi grunge di Cremone Gigante per soli adulti, album che doveva uscire nel 91, per una serie di motivi poi ciò non accadde ed è stato recuperato molti molti anni dopo da una etichetta giapponese. Saluto intanto Giuliana Secondino qui a Roma ed Ernesto Duck Phoenix Galli. I grunge dunque ce li stiamo godendo da un po', già che questa è una, diciamo, un recupero di questo vecchio materiale arricchito anche da certe tracce che allora furono scartate e che sono state reinserite in un secondo CD. La prima parte è un storico live che si tenne, dove ero anche io presente peraltro, che si tenne all'università qui di Roma, all'Aula Magna, nel 1990, se non sbaglio, ai tempi della Pantera, il movimento, diciamo, studentesco universitario che impazzò in quegli anni e che fece molte molte belle iniziative, ovviamente non solo musicali. Ci ascoltiamo Cameraman e Suoni.